Chica. Ok, oh, magone. Ok, platinette. Platinette. Lussuria. Non lo sai. Ecco, lussuria, ma se mi imbacca. E io. E lo cai.